tempo di sport con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, Giorgio De Luca in redazione, Valeria Bernardi in regia, e so già che oggi sarà il lungo pomeriggio fino alle 19 dei sostenitori della moviola, dei complottisti, di chi vorrebbe la fucilazione di Tagliavento, del guardaline di ieri sera, di chi dirà tutte queste cose all'800240024. Io alla moviola in campo, ma per gusti personali, non sono mai stato favorevole. Ho sempre sostenuto che con la tecnologia, quella sì indispensabile, ad esempio un chip nel pallone, una telecamera sulla linea di porta, o al limite l'occhio umano come si usa in Champions League con il giudice di fondo, con l'arbitro di fondo campo, ieri sera sarebbe andata in un'altra maniera. In tutto questo c'è da considerare anche la fallibilità umana, che fa parte non solo del calcio ma anche dello sport, e secondo me è bello così, e anche perché ci permette di intavolare tutte queste discussioni, cosa che faremo da ora fino alle 19, 800 24 00 24. Certo è che anche questo pomeriggio non sta risparmiando né gol né episodi, non ci sono partitissime di cartello. Ci sono però un sacco di gol e anche tanti episodi arbitrali che porteranno a discutere. Innanzitutto la Roma sta crollando a Bergamo contro l'Atalanta. Dennis poco fa ha segnato il gol del 4-1 che tra poco Dario Ricci, che già saluto. Ciao Dario. Ciao Carlo, buon pomeriggio a tutti. Tra poco Dario Ricci ci racconta. Quindi 4-1 per una Roma, e anche questo argomento di discussione fresco. C'è De Rossi che è stato lasciato in tribuna per ragioni tecniche non meglio precisate, cosa che Luis Enrique farà nel dopopartita, e saremo tutto orecchi per ascoltare cosa avrà da dire questa decisione, che insomma è stata indubbiamente penalizzante per la Roma, ma anche sul piano tattico, perché i gol dell'Atalanta, che tra l'altro ha colpito un palo dopo 3 minuti, sono arrivati con due contropiede centrali laddove di solito esiste la diga De Rossi. Il primo l'ha segnato Marilungo al 10°, il secondo Dennis al 19°. Borini ha provato a riaprire il discorso al 36° del primo tempo, nella ripresa al 3° di nuovo Dennis, al 10° espulso Osvaldo, anche qui per motivi non chiarissimi dall'arbitro D'Amato, al 20° Dennis per il gol del 4-1. C'è il Lecce che sta vincendo 2-1 a Cagliari, Lecce in vantaggio con Muriel al 44° del primo tempo, al 4° della ripresa mani molto dubbio di Miglionico, rigore assegnato da Rocchi e trasformato dall'Arrivei per l'1-1, al 17° Bertolacci in girati in mischia da centroarea. Tonda la vittoria che sta maturando a Catania a favore del Catania sul Novara 3-0, Berghessi al 30°, quindi Marchese difensore ex Chievo con un gol spaventoso nella sua bellezza, sinistro al volo da 25 metri, il classico gol della domenica. Al 10° ha segnato Gomez, quindi 0-0 tra Chievo e Cesena. Mentre il Palermo sta perdendo 4-1 a Siena, anche perché gioca in inferiorità numerica da tutta la partita. Dopo 70 secondi espulso Balzaretti per fallo da ultimo uomo su destro, anche in questo caso decisione molto drastica quella presa da Gava, mi viene da dire forse eccessiva, perché mi sembra che il Balzaretti avesse in qualche modo toccato il pallone. Comunque certamente discutibile questa decisione di Gava. Poi il Palermo è passato in vantaggio con Budan al 12°, al 23° fallo, anche in questo caso da rivedere un po' di volte, di Aghisarrai su Brienza, rigore fischiato e trasformato da Terzi per l'1-1, Bogdani al 33° per il 2-1, poi dilaga il Siena con Rossettini e Brienza nella ripresa. Allora Dario, raccontaci il gol di Dennis, che io ancora non ho visto. Allora, c'è stato un errore, Carlo, un errore della retroguardia giallorossa, appunto, tanto per raccontarne una nuova, e il lancio in profondità verso Dennis, che a quel punto con un delicato tocco sotto ha battuto Stekelenburg in uscita. Da sottolineare in merito al caso De Rossi, Carlo, che voci che girano in tribuna a Bergamo parlano di un provvedimento disciplinare da parte di Luis Enrique, sì, perché De Rossi sarebbe arrivato in ritardo al raduno della della Roma, staremo poi a vedere cosa dirà lo stesso tecnico nel dopo gara. Da ricordare che anche il Cesena contro il Chievo a Verona gioca in inferiorità numerica per l'espulsione del difensore Lauro a inizio ripresa. Per doppia ammonizione, perfetto, grazie a Dario Ricci. Io comincerei, se va, no, beh, vi do due notizie di giornata, una non riguarda il calcio ma lo sci, ed è una notizia splendida per lo sci azzurro, perché Max Blardone ha vinto il gigante di Coppa del Mondo di Crans-Montana davanti al fuoriclasse austriaco Hirscher, che ha preceduto Reichel. Quindi c'è anche il 20° posto di Borsotti, ma naturalmente che conta è questa vittoria di Blardone, che sta facendo benissimo in questa stagione. E poi, per quanto riguarda invece i fatti di ieri sera, di cui ho l'impressione discuteremo a lungo, vi ripeto, 800 24 00 24, numero verde, messaggi 349 238 6666, ebbene, oggi c'è stata una dichiarazione del presidente dell'AIA, Associazione Arbitrale Italiana, Marcello Nicchi, il quale ha detto: i fatti accaduti in Milan-Juventus ci addolorano, dopo ciò che è successo c'è poco da aggiungere. Questo ha detto Nicchi. Immagino che tutti sappiate cosa è accaduto, immagino che tutti sappiate cos'è successo durante la partita e anche dopo la partita. Io comincerei a farvi sentire un po' di voci che proprio Dario Ricci, che ieri sera era a San Siro, ha raccolto nel dopogara, a partire dal calcio, però, da Conte, su quello che ha detto sulla partita della sua Juventus. Poi io vi dico la mia, voi mi direte la vostra, avremo anche tanti ospiti per parlarne. Sentiamo Conte. Esco da San Siro vedendo il bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto. Mezzo pieno in quanto la squadra, anche in quei 60 minuti in cui il Milan ha fatto una partita straordinaria per ritmo, per intensità, per ferocia, per determinazione, per qualità, siamo riusciti comunque abbiamo barcollato, però non siamo caduti. Abbiamo tenuto botta e negli ultimi 30 minuti siamo usciti fuori e si è vista la vera Juventus, ottenendo il pareggio e quel gol annullato. Questo era Antonio Conte, una prima versione su quello che è successo in campo. Poi nel dopopartita, tutti contro tutti in un selvaggio far west. Questa è stata forse una delle cose più fastidiose, anche perché va bene che ci possano essere degli scazzi tra giocatori, questo fa parte del gioco in una partita così tesa ed importante. Poi magari possono esserci diverbi a distanza, come ci sono stati, li ascolteremo, tra allenatori, ma che tutti se la prendano con tutti, senza nemmeno in un momento di così grande tensione al rispetto dei ruoli, è stato davvero da far west selvaggio. C'è un gol importante perché sblocca l'unica partita che in questo pomeriggio, ricchissimo di gol episodi, lo ripeto, era sullo 0-0, vero Dario Ricci? Sì Carlo, hai proprio ragione, perché al 33° del secondo tempo il Chievo è passato in vantaggio sul Cesena grazie alla quarta rete stagionale di Davide Moscardelli. C'è stato un bel cross dalla sinistra di Etemai sul secondo palo, Moscardelli ha beffato Pudil, gli è praticamente passato alle spalle il pallone, che è appunto passato a beffare il difensore cesenate, e a quel punto Moscardelli con un bel tuffo di sinistro è riuscito a battere Antognoli da poco più di un metro. Quindi Chievo 1, Cesena 0. Senti, ma dimmi la tua, ieri sera eri a San Siro, hai inviato per noi, hai visto la partita, hai raccolto tutte le interviste che faremo sentire. Dalla tribuna stampa che cosa hai visto? Dalla tribuna stampa quello lì era gol tutta la vita, già scrivendo, già ho scritto sul taccuino 2-0, già scritto, poi dico il pallone quando lo rimettono al centro, mentre finivo di scrivere Carlo quasi Stigarribia segnava il pari, no? Con la splendida parata di Abbiati, tu pensa se fosse arrivato l'1-1 su quel tiro. Sì, ne ho visto una simile qualche anno fa, non nelle dinamiche diverse, la squadra di Milano non era quella con la maglia rossonera, era quella con la maglia nerazzurra, e da lì un putiferio. Io mi auguro soltanto, a Torino, dici tu. Bravo, mi auguro soltanto che insomma questo episodio non sia decisivo per il campionato, non credo lo sarà poi alla fine, perché non dimentichiamo che insomma la Juventus ha vinto 2-0 la gara di andata, quindi è vero in svantaggio di un punto in classifica con una partita da recuperare, però in vantaggio nei confronti diretti sul Milan. Già ascoltatori, mi fa molto piacere, 800 24 00 24, partiamo da Roma con Andrea. Buonasera Genta. Buonasera. Volevo solo mettere il becco nella partita di ieri da interista. E anche per lei, che Mourinho non l'ha mai digerito tanto, però io? Se ci fosse... No, aspetti, io non ho mai digerito Mourinho. No, per alcuni comportamenti, per alcune dichiarazioni. No, in alcuni casi penso che... Non l'ha difeso, diciamo. In alcune circostanze penso sia stato maleducato, in alcune circostanze penso che abbia fatto la pipì fuori dal vaso, per essere eleganti, o per non esserlo, decide lei. Però a me piace Mourinho, mi piace come lo ritengo un grandissimo allenatore, e a me piacciono i personaggi, lo ritengo un grande personaggio, quindi mi divertivo un sacco con Mourinho. Non è vero che non. Quindi, vabbè, quanto lei dice non risponde alla verità, insomma. Ok, rispetto alla partita di ieri, ecco, Mourinho in Italia avrebbe fatto delle battute che magari potevano superare oggi la sufficienza tecnica del livello della partita, insomma, di ieri. È così. Quindi, sì. Così. Beh, è stata una bella partita. Una battuta divertente. Perché insomma, secondo lei è stata brutta? No, una bella partita, però ecco, magari tecnicamente non un po' meno di quello che ci si aspettava, non so, oppure magari ha svelato una partita tesa, agonisticamente importante, agonisticamente, bella, eccetera, magari sì. Ha fatto... Molto, molto fisica, è stata una partita in cui il Milan ha fatto la Juventus per 70 minuti. Magari il Milan ha fatto la Juventus svelare per... che proprio il tasso tecnico di una delle due squadre che andrà a vincere lo scudetto non è così eccelso, insomma. Sì, però sono attenzione, perché c'è un altro gol, in questo caso il classico gol della bandiera, che tra poco Dario Ricci ci racconta. Beh, insomma, secondo me è stata una bella gara. Nessuna di queste due squadre è il Barcellona, e nemmeno il Real Madrid, però insomma è stata una partita che tra le due migliori squadre italiane, nettamente, molto tesa, tirata agonisticamente, molto fisica, molto italiana, se me lo permettete. Dario Ricci, che gol c'è stato? C'è stato il gol della bandiera, appunto, Carlo, del Novara sul campo del Catania comunque avanti sempre per 3-1, un'incursione di Mascara, ex di turno, il sinistro, e a centro area, su cui è andato ad impattare Rubino, che ha siglato il 3-1, pochi istanti prima era stato Ricchiuti a fallire invece il 4-0 con la complicità, direi, di Ugi Cani, che era stato molto bravo a chiudergli lo specchio della porta tu per tu da pochi metri. Benissimo, grazie Dario Ricci. Vado avanti con gli ascoltatori. Paolo da Bergamo. Sì, buongiorno dottor Genta. Buongiorno. Volevo dire una cosa, io sono, a parte milanista, ma i giudizi non cambiano per quello, nel senso che io sono un tennista che ha giocato a ottimi livelli e mi trovo sempre a discutere con gli appassionati di calcio, che è una lei ha sentito all'inizio della trasmissione che non è molto d'accordo sulla moviola, ma noi nel tennis è una cosa indispensabile, e non è che l'occhio di falco, lei dice. Il falco è bellissimo, c'è una finale di Wimbledon. Sì, ma guardi che, attenzione, non equivochiamo in questo caso, cioè no, io sono favorevole. Sono favorevole all'impiego della tecnologia per questioni, tra molte virgolette, geometriche. Cioè, nel senso, se vogliamo capire se un pallone è entrato in porta oppure no, se è uscito dal campo oppure no, allora sì, allora ci sto. Non ci sto quando si entra nella discrezionalità dell'arbitro, cioè per capire se... com'era un contatto, se era rigore oppure no. In questo caso io lascerei fare alla fallibilità, mi abbandonerei alla fallibilità umana, però in casi come questo nel 2012, con un pallone che entra di mezzo metro, insomma il gol deve essere concesso. Mi sembra siano due cose distinte e distanti. Paolo, sono stato a dicembre a vedere il Master di tennis e c'è stato un giocatore, Murray nello specifico, che aveva fatto un ace, l'arbitro l'ha convalidato, l'avversario ha chiesto che per lui era fuori. Sì. Dei conti che eravamo un tie break del terzo set, contava quasi $200,000. Certo. E l'altro, e l'avversario, quando ha visto che era buona, ha dato la mano a Murray e ha detto perfetto, bravo. Cioè, solo quello, poi ovvio che non possiamo fermarci per ogni fallo, perché sennò finiamo. No, ma chiaro, ma è evidente, ma poi parliamo anche comunque di sport molto, molto differenti. Parliamo di sport molto differenti. Io credo che l'occhio di falco nel tennis sia un'eccellente soluzione, così come continuo a pensare che lo sarebbe stato anche quella pluribocciata del chip dentro al pallone. È stata sperimentata, poi è stata esclusa. Credo anche che insomma, la soluzione del giudice di fondo campo, dell'arbitro della linea di fondo come esiste in Champions League, avrebbe evitato in modo umano l'errore di ieri sera, che ancora francamente non ho capito, perché l'hanno fatto vedere da mille posizioni e il guardalinea meglio di così non poteva essere posizionato. Cioè, Romagnoli sinceramente non capisco come la palla era molto veloce, però non capisco come possa non averla vista. In tutta onestà, capita di sbagliare, questo sì, se poi ci mettiamo a discutere la buona fede, come è stato fatto poi nel dopo partita a sproposito anche ieri sera, allora non la finiamo più. Siamo nel finale delle partite. Dario Ricci, è successo qualcosa? Ma direi niente di particolare. Ti segnalo però qualche minuto fa a Cagliari la buona occasione per chiudere la partita per il Lecce, che è in vantaggio, lo ricordiamo, per 2-1. Il tocco di Muriel per Di Michele dal limite dell'area, anzi no, forse proprio dall'altezza del dischetto, il sinistro a giro clamorosamente fuori a tu per tu con Agazzi, e quindi Lecce che ancora deve soffrire di fronte al forcing finale del Cagliari. Mi ridai al volo tutti i parziali? Sì, arrivo subito. Allora, abbiamo Chievo-Cesena 1-0, Cagliari-Lecce 1-2, Catania-Novara 3-1, Siena-Palermo 4-1, Atalanta-Roma 4-1, poi questa sera 20:45 tutte le big, Bologna-Udinese, Napoli-Inter, big match chiaramente, Lazio-Fiorentina, chissà se è la prima del nuovo ciclo o l'ultima del vecchio di Reia, questo quello che lo capiremo solo vivendo. Lo capiremo vivendo, così come capiremo vivendo se domani Ranieri sarà ancora allenatore dell'Inter. Altri due bei temi di discussione insieme a voi, 800-24-00-24 numero verde. Questi sono ancora parziali dai cinque campi della Serie A. Io vi do invece un finale che è vecchio, 42-10, è quello che segna la sconfitta dell'Italia del rugby ieri in Irlanda. Il giorno dopo Giacomo Bagnasco, che ieri era a Dublino. Ciao Giacomo. Sì, ciao Carlo, sono appena tornato effettivamente. C'è stato modo di meditare, di parlare con gli altri colleghi, di parlare anche con giocatori protagonisti del passato. In aereo ho incontrato Frank Mesnel, che è stato il mediano d'apertura della prima Francia finalista mondiale nel 1987. Arrivarono in finale in Nuova Zelanda e persero dagli All Blacks, proprio come è successo pochi mesi fa. Lui ha parlato di un primo tempo buono e che fa sperare, e sul secondo tempo non è riuscito neanche a esprimersi, ha fatto una smorfia che diceva tutto. In effetti è proprio così. Quello che ha colpito più negativamente è come la squadra si è ammosciata, e soprattutto questo è successo in realtà già negli ultimi 5 minuti del primo tempo. Sì, ma anche questo è un vecchio refrain, Giacomo, anche questo è un vecchio refrain. L'Italia regge fisicamente facendo il doppio della fatica degli avversari, e poi che poi tanto sanno che crolla comunque fisicamente, e dunque poi fanno quello che vogliono, perché sanno giocare a rugby. Questo è vero, Carlo, però era arrivata a segnare una meta al 35esimo del primo tempo, a pareggiare e dimostrando anche vitalità e voglia. In quei 5 minuti finali si trattava di far capire che la tendenza non doveva essere invertita, invece gli irlandesi, che pure avevano subito, non si può dire che abbiano scherzato al momento di prendere una meta, si sono installati nella metà campo e non ne sono usciti se non quando hanno segnato a loro volta. Bottes ha sbagliato un calcio all'inizio del secondo tempo, e da lì in poi la partita non è esistita più. Io credo che non sia il momento per scaricare critiche su Brunella, anche se la scelta del mediano di apertura su Bottes deve capire dove è capitato, secondo me deve ancora capire dove è capitato. Questo è probabile. L'altra cosa è che se lui riesce progressivamente a lanciare dei giovani che non necessariamente sono dei fenomeni, ma comunque come voglia e come prospettive, come età a questo punto. Sono meglio di quelli che hanno giocato finora, qualcosa può succedere. Certo, anche i giovani vanno costruiti nel tempo e vanno probabilmente però costruiti fin dall'inizio. C'è Galles che ne ha una batteria infinita, ieri è uscito Jamie Roberts, uno dei migliori giocatori del mondiale come primo centro, giovane pure lui, 24-25 anni, è entrato un 21enne Scott Williams contro l'Inghilterra, Twickenham ha rubato la palla un giocatore che era il doppio di lui, cioè Courtney Loves, e poi si è fatto da solo 60 metri calciando, riprendendo la palla, sfuggendo a due giocatori e segnando la meta della vittoria per un Galles che in questo momento sembra il favorito numero uno per la vittoria finale. C'è stata poi, lo saprai Carlo, naturalmente una meta non assegnata all'Inghilterra, era quella del possibile pareggio, cioè ultimo minuto, Strettel tocca non tocca, due minuti di attesa. Sì, non una gran giornata, Giacomo, quella di ieri per sul fronte arbitrale tout court, perché questo lo sappiamo bene. Giacomo, ti ringrazio perché vado un po' di corsa. Benissimo. Un abbraccio, grazie a Giacomo Bagnasco. Stanno finendo le partite, anzi una finisce in questo momento, ma il risultato non era in discussione. Dario Ricci. Siena-Palermo 4-1 sotto una nevischiata, direi, insomma Siena l'inverno ancora deve finire, davvero. Direi. Sta per finire anche la partita di Bergamo, come tutte le altre del resto, da segnalare che Atalanta nettamente in vantaggio per 4-1, seconda espulsione nelle file della Roma, questa volta è stato Cassetti a meritare gli spogliatoi, tra l'altro Cassetti che era stato anche l'autore dell'errore decisivo che aveva lanciato proprio Dennis verso il quarto gol dei bergamaschi. Cassetti tecnicamente per proteste, direi, nei fatti è stato un baffa all'arbitro D'Amato. Capisco, Roma disastrosa oggi e credo che Luis Enrique avrà diverse cose da spiegare, a cominciare dall'esclusione per motivi disciplinari disciplinari mi sembra evidente di De Rossi, pare sia arrivato in ritardo, ma poi sarà lui a doverlo spiegare, e di fronte ad una Roma così disastrosa ci saranno tante cose da dire, ne avrà tante anche Maria Paola da Milano. 800 24 00 24, buonasera Maria Paola. Buonasera, sono una juventina dalla nascita, posso dire, perché sono cresciuta in mezzo ai ragazzi in Lomellina, io abito a Milano, con questa maglia bianca e nera, però io sono anche la figlia di un alpino che mi ha insegnato qualsiasi costo bisogna dire la verità, bisogna prendersi le responsabilità. E adesso lo sto dicendo grossa. Io farei saltare a Buffon un turno in nazionale. No, è stata una vergogna. Guardi, io purtroppo sono una che avrei perso il posto da portiere alla Juventus, ma prendevo il mio pallone e dicevo questo è un gol. Lei però dice no, aspetti a salutarmi. Lei ieri Buffon la verità l'ha detta. Sì, ma sono anche figlia di un alpino e ho perso che ero piccola, ma mi è rimasto, bisogna sempre dirla, a costo di rimettere, ma bisogna dirla. A modo suo l'ha detta, ha detto una verità estremamente impopolare come lei sottolinea. Sì. No, però ha detto, anche me ne fossi accorto, no, non so se se n'è accorto, no, questo lo dai, sa solo, ma guardi, questo io, lo sa solo, io lo sa solo lui. Non riesco a giustificarlo, no ma io questo le fa grandissimo onore, questo le fa grandissimo onore, però ieri Buffon una verità estremamente scomoda ed estremamente impopolare l'ha detta, perché io non so in quanti avrebbero detto quelle parole. Non dico che fa bene, non dico che ha ragione, perché ha ragione lei Maria Paola, però andare lì e dire me ne fossi accorto, comunque non avrei detto all'arbitro, non me ne sono accorto, questo non posso saperlo, perché appunto lo sa solo lui, è vero, era un pallone molto veloce, era un'azione molto convulsa, eccetera eccetera, però ha detto una verità estremamente scomoda. Grazie Maria Paola, grazie davvero e torno a trovarci. 800 24 00 24, siamo nel finale di partite, anzi sono finite tutte, e allora un bel riepilogo di Dario Ricci. Sì, manca solamente Bergamo di fatto, Carlo, 30 secondi alla fine, ma l'Atalanta è in vantaggio per 4-1 grazie al gol di Manilongo e alla tripletta di Dennis. Per la Roma due espulsioni, Osvaldo e Cassetti, e il gol della bandiera di Borini. 4-1 1 anche del Siena sul Palermo per quanto riguarda i marcatori per i rosanero Budan, mentre per il Siena il rigore di Terzi, poi Bogdani, Rossettini e Brienza. 2-1 del Lecce a Cagliari grazie alle reti di Muriel e Bertolacci, il pareggio momentaneo di Larrivei al quinto della ripresa su calcio di rigore, il 3-1 del Catania sul Novara, i marcatori Bergessio, Marchese e Gomez per gli Etnei e poi la rete nel finale di Rubino per i piemontesi, e poi importante in coda l'1-0 del Chievo sul Cesena grazie alla rete al 33esimo della ripresa di Moscardelli. Questa sera 20:45 tre posticipi: Lazio-Fiorentina, Napoli-Inter e Bologna-Udinese. Perfetto, grazie a Dario Ricci che ritroveremo comunque più tardi e di cui sentiremo in ogni caso le interviste nel caldissimo dopo partita di ieri sera, un dopo partita che non è finito ieri, non è finito oggi, non finirà probabilmente nemmeno domani, quando ci troveremo qui alle 14, perché ci sarà il sottoscritto domani pomeriggio per A Tempo di Sport. Io mi fermo, 800 24 00 24 numero verde, vi aspetto massicci. Dunque, ovviamente appena sentite il riepilogo dei risultati nel giornale radio, giornata con un sacco di gol ma anche un sacco di episodi arbitrali, tanto per cambiare, ne sto rivedendo uno come ad esempio il rigore molto dubbio secondo me concesso al Cagliari, che comunque ha perso in casa con il Lecce 2-1. Disastrosa la Roma di Bergamo, ha perso 4-1 con due espulsioni, quelle di Osvaldo e di Cassetti, con De Rossi lasciato in tribuna per motivi tecnici o disciplinari che tra poco Luis Enrique ci spiegherà e lo ascolteremo con attenzione, con il Catania che batte facilmente il Novara di Mondonico 3-1, con il Chievo che supera il Cesena 1-0, Cesena di Mario Beretta, con la partita di Siena segnata dall'espulsione dopo 70 secondi, avete capito bene, 70 secondi di gioco di Balzaretti per farlo da ultimo uomo su destro, e poi il Siena che dilaga nella ripresa vincendo 4-1, con una classifica che dice Milan 51, Juventus 50 in mezzo alla bufera, con la Juventus che deve, causa bufera vera di qualche settimana fa, andare a recuperare la partita di Bologna e che è in vantaggio comunque nei confronti diretti, lo ricordo, per la vittoria 2-0 a Torino. Lazio Udinese 42, Lazio che è di chissà chi, non so se ancora di Reia, di Zola, mica si è capito questo mistero buffissimo. Udinese 42, giocano entrambe stasera, Roma 38, Napoli 37 che gioca stasera contro l'Inter che ne ha 36 e magari potrebbe essere l'ultima Inter di Ranieri, anche di questo parleremo più tardi, anche con voi se volete, 800 24 00 24, Palermo 34, Chievo Catania 33, Atalanta Cagliari e Genoa 31, Parma infuriato, Parma pure infuriato per il gol del pareggio rimediato ieri a Genova con quei 7 incredibilmente lunghi minuti di recupero concessi nell'anticipo delle 18. Bologna Fiorentina 28, Siena 26, Lecce 24, Lecce lanciatissimo verso la salvezza, ma anche il Siena, come avete visto, anche oggi sta marciando forte. Novara 17, Cesena 16, tira una brutaria, onestamente. Augusto, Fabio da Pisa, Augusto da Bergamo, Marco da Perugia, un sacco di ascoltatori oggi, ma non avevo grandi dubbi. 800 24 00 24 è la vostra giornata, è la vostra domenica. Fabio, buonasera. Buonasera a lei. Telefono dalla provincia di Pisa. Sì. Mi volevo collegare a quello che ha detto prima la signora Maria Paola. Anch'io la penso un po' come lei, avevo il desiderio che dopo aver provato a fare quella parata difficilissima, Buffon non riuscendoci fosse andato dall'arbitro e gli avesse detto io ci ho provato, ma era gol, non lo ha fatto. Stamani sui giornali, sia sul Corriere della Sera che sulla Gazzetta dello Sport, leggo il gol, se l'avessi visto avrei taciuto, non mi sono accorto che la palla fosse entrata. Ora io penso, o lui ha detto una bugia grossa come una casa, o sarei molto preoccupato per il suo futuro di portiere, dal momento che la vista è un organo fondamentale per il suo lavoro. Aveva un'occasione eccezionale per dimostrarsi, oltre vista, che un grande portiere come lo è, anche un grande uomo, e avrebbe dato testimonianza in un mondo dove le cose non vanno nella maniera migliore, sì, per sì, i giovani, sì, soprattutto, sì, che lo hanno visto in tutto il mondo, perché è una partita vista da tutte le parti, di far vedere. Sì, però attenzione, però, sì, però Fabio, attenzione, Buffon l'ha detta grossa e si è reso anche impopolare, ha avuto anche coraggio volendo in questo, però quel gol, insomma, io posso anche capire che non, per chi tenta quella parata non sia chiaro, no? Io posso anche capire che non sia chiaro. Adesso l'errore non è stato di Buffon, l'errore è stato di chi doveva concedere quel gol, quindi non ribaltiamo i termini del discorso in questo senso. Luis Enrique con Sky, sentiamo. Sì, poca cosa per salvare, no? Credo che non siamo entrati nella partita già dal primo tempo soffrendo tantissime ripartenze. Il secondo è stato l'inizio uguale, pure il gol che abbiamo fatto ancora non era chiusa la partita, ma il secondo tempo è iniziato dello stesso modo e così è molto difficile. Troppa facilità per la squadra avversaria, bastava una verticalizzazione per mettere un uomo davanti a Stekelenburg. Sì, è stato così, 2 o 3 ripartenze del primo tempo facilissime e pure 2 o 3 al secondo tempo, e la partita con 3-1 già era finita dopo dell'espulsione di Osvaldo, era una partita già per dimenticare. Faceva riferimento Ilaria D'Amico alla esclusione di De Rossi, perché il provvedimento disciplinare, Ilaria, quanto risulta a me, riguarda soltanto Daniele De Rossi, non Kier. Mm-hmm. Da quello che risulta a noi, Luis Enrique, un ritardo alla riunione tecnica, ce lo conferma? Ha scaturito questo provvedimento disciplinare? Mai parlo di che cosa succede nella mia squadra, nello spogliatoio, nell'albergo, mai parlo di questa cosa. Daniele è semplicemente un caso di che non l'ho visto pronto, e se non vedo pronto un calciatore non va in campo. Penso sempre che la squadra è davanti di qualsiasi calciatore, e così come lo penso, e non l'ho visto pronto, semplicemente. E De Rossi in tribuna ce lo sta spiegando come un fatto quasi normale? Cioè un fatto tecnico? Credo che l'ho spiegato benissimo, no? Con un italiano un po' strano, perché è il mio italiano, ma credo che è chiaro che cosa è successa. Non penso prolungare questo discorso, so che è molto interessante dopo di una sconfitta, ma io sto sicuro che nessuno mi può assicurare che con uno o un altro calciatore questa sconfitta non c'era. Bene, Lara, noi rispettiamo ovviamente la dribbling, spiegazione che ci ha dato Luis Enrique. Spiegazione, dribbling di Luis Enrique, quindi la voce non confermate che De Rossi sia arrivato tardi a questa riunione tecnica e sia stato messo fuori da Luis Enrique, che ha dribblato l'argomento. Augusto da Bergamo, buonasera. Senti, io chiamo a proposito del gol appunto di ieri sera a San Siro. Premetto, sono un appassionato di rugby, per cui so che anche lei, ecco, conosce questo mondo, per cui di fronte allo spettacolo di ieri, insomma, non posso che rimanere attonito, va bene. Comunque, dico una cosa soltanto. Cioè, ma attonito in che senso? No, veramente penoso, ecco, rispetto a quello che è il mondo del rugby, veramente. Sì. Siamo distanti. Lei si riferisce al dopo partita? Al dopo partita, sì, sì. Esatto. No, ma a proposito del gol, penso questo. Quale problema c'è ad applicare quello strumento del TMO che si usa nel rugby? Si sarebbe risolto tutto in pochi secondi. E, tra l'altro, appunto, ieri ho visto la partita Inghilterra-Galles, e all'Inghilterra appunto è stato negato una meta proprio grazie all'utilizzo di questo strumento. Quindi mi chiedo, almeno soltanto per appunto, come diceva lei poco fa, per questi aspetti, per esempio per i gol non chiari, per i gol fantasma, sono d'accordo su questo, anche se non dobbiamo fare, secondo me, fare confusione tra i vari sport, tra le modalità di applicazione, eccetera eccetera, perché quando si comincia a parlare di movimento in campo, allora questo è uno spettro molto ampio che comprende i rigori, che comprende i fuorigioco, che comprende ogni tipo di fallo, eccetera eccetera eccetera. Quindi su questo non sono d'accordo, sul fatto di

porse il segnalinea, avrà visto quello lì. Ma se non l'ha visto deve cambiare mestiere, però Piero, dai, su, adesso se non l'ha visto deve cambiare mestiere, Romagnoli, perché ma chi è che non sbaglia nel mazzo? No, ma sbagliano tutti, però questo qui è talmente grosso che se non l'ha visto, per uno che ha allenato e che lo fa in maniera professionale, tutti noi sbagliamo, diciamo un sacco di fesserie, facciamo un sacco di fesserie, io per primo. Però se non l'ha visto, forse è il momento che cambi mestiere. Sul secondo non accetto il discorso di Conte che dice vabbè, uno a uno anche nei torti, perché una cosa era molto evidente, l'altra cosa era un errore dovuto a una giustificabilissima fallibilità umana. Alberto da Prato, buonasera. Sì, buonasera. Volevo dire una cosa sulla Juve. Io premetto, non sono tifoso juventino, però secondo me Borriello non è da Juventus e non è da Juventus che vuole tornare a essere una grande squadra. E due, a questo punto Conte forse non ha sbagliato, perché ha tenuto botta 70 minuti con Borriello e poi quando il Milan ha ceduto ha buttato dentro Matri, che ha fatto la differenza, mentre forse Borriello non l'avrebbe fatta. E magari Matri nei primi 70 minuti con Milan così in forma non avrebbe inciso come ha inciso in questi 30 minuti. Mi sembra un po', cioè se ha fatto così bravissimo, eh. Io mi ripeto quello che è il mio pensiero, sarei andato a questa partita con la squadra che mi ha portato lì e con tutti i suoi interpreti, a prescindere addirittura dal momento di forma, perché in una partita così importante per una squadra che vive in maniera così emotiva come la Juventus, cambiare in maniera così importante in qualche modo trasmette insicurezza, almeno secondo me, e trasmette forse sicurezza agli avversari. Guarda, questo cambia la formazione, cambia la squadra che l'ha portato fin lì, magari ha un po' paura di noi. Non è solo una questione tecnica, è anche, secondo me, un segnale. Io sarei andato con la squadra che lo ha portato lì e che poi lo ha riportato in sella a questa partita che stava perdendo. Torniamo insieme, 800 24 00 24, numero verde oggi bollente per le vostre opinioni. Saluto Matteo Marani, direttore Guerri Sportivo. Ciao direttore. Buon pomeriggio, ciao, bentrovati. Siamo qua di nuovo a parlare di, insomma, delle solite cose, Moviola, mica Moviola. Però guarda, la cosa che peggiore ieri sera, esagero volutamente, non è stato neanche l'errore di Romagnoli quanto il dopo partita, secondo me. Ma sì, io direi tutto, sinceramente tutto, anche l'intervallo, ci metto dentro ogni cosa, lo spettacolo ovviamente, indecente finale, forse io sono d'accordo forse solo con una cosa con Conte, cioè quando ha detto che questa partita qui è stata caricata troppo, sì, innanzitutto dai anche da loro, dai protagonisti, dai protagonisti che hanno usato in maniera strumentale, anche un po' spregiudicata, ovviamente i mezzi di informazione che erano ben disponibili. Questa partita è cominciata ed è degenerata il giorno della manata di Ibra da Ronica, è cominciata lì, ha cominciato a deragliare da lì e poi è finita con un far west che è molto italiano. Sì, che purtroppo però bisogna anche sperare di interrompere, di smettere, perché non possiamo offrire all'estero questo spettacolo. Quello per noi ieri era una sorta di grande classico, sì, insomma, sì, credo che questa mi sembra una speranza vana, posso dire. Sì, però bisognerebbe che in qualche maniera si tentasse di porre rimedio, perché non possiamo assistere a questo spettacolo in cui, ripeto, c'è, cioè, alla fine è un far west, è tutta una risa, ci sono veleni, sono volati nell'intervallo accuse di mafia da una parte e dall'altra, insomma, su via, è pur sempre una partita di calcio e tale dovrebbe rimanere. E dico, è stata troppo inquinata la vigilia, troppo, se ne è parlato troppo, c'è stata troppa attenzione probabilmente da parte dei media. Ieri si scherzava con qualche amico in rapporto all'attenzione per questa partita, sul fatto che per esempio Genoa-Parma praticamente non è stata neanche, non sia esistita, cioè si è parlato secondo me eccessivamente, c'è stato un surplus di informazioni, di battibecchi, di polemiche, quello è il risultato finale. Senti, ma alla luce della partita di ieri sera, chi è favorita per lo scudetto?

Buonasera, salve. Premetto, io non sono né tifoso del Milan né della Juventus e non sono neanche molto tifoso di calcio, però ieri sera ho visto la partita e quello che mi è dispiaciuto è ascoltare il cronista di Sky che diceva che tra il primo e il secondo tempo il direttore generale del Milan, Galiani, ha fatto una lavata di testa, testuali parole, all'arbitro negli spogliatoi. E allora mi chiedo, ma l'arbitro che ha subito una lavata di testa da Galiani successivamente ha arbitrato in maniera serena o col timore di essere sempre sotto giudizio? E allora poi diciamo succede che l'arbitro per errore, sempre errore in buona fede, annulla un gol alla Juventus. Diciamo sempre con l'idea che nel dubbio non si fischia, invece in quel caso no, nel dubbio guardi ha fischiato. No, volevo solo finire perché sì, sono anche molto emozionato, le chiedo scusa. Poi dopo succede che quando intervistano Matri, l'autore diciamo del gol assegnato e non assegnato, lo stesso giocatore dice che tutto sommato è giusto così, perché diciamo così c'è stata una compensazione. Allora mi chiedo, ma che sport è questo? Compensazione dove... è sempre sbagliata, no, ma guardi, la interrompo perché c'è il traffico, ma abbiamo capito il senso del discorso. Non ci può essere serenità, non esiste. Io torno a ripetere, la mia idea è che il contesto, il contorno, il dopo partita, l'intervallo siano state la cosa peggiore, la lunga vigilia siano state la cosa peggiore, peggiore addirittura di quell'errore così clamoroso commesso da Romagnoli e da Tagliavento. Non ancora detto, lo faccio ora su segnalazione di Giorgio De Luca. Potete discutere con noi anche su Facebook e Twitter, basta cercare A Tempo di Sport, mi raccomando. Maurizio da Roma, buonasera. Dottor Genda, buonasera. Io vorrei parlare di Buffon, di quello che è accaduto ieri, perché a noi milanisti ci ha fatto davvero tanto tanto male. È un comportamento che probabilmente Buffon farà ricevere gli applausi degli juventini, ma i fischi e le pernacchie del mondo intero. E poi non posso accettare, mi consenta, dottor Genta, le tesi giustificazioniste che in un certo qual modo scusano Buffon per quelle dichiarazioni che fuori dalle righe oserei dire vergognose, è un elogio alla furbizia, non lo so come dire, soltanto perché un gioco del calcio è una partita importante, ma ognuno di noi quante partite importanti fa nella vita e dovremmo essere solo perché sono partite fondamentali pur non facendo i calciatori furbi o disonesti? Non posso accettare questo. E poi se Tagliavento e Romagnoli hanno sbagliato, in buona fede, per carità, ma si tratta di errori tecnici alla luce della trasparenza che vogliamo introdurre in Italia, perché non ci fanno sapere che quale sarà la punizione, quale sarà la sanzione, verranno la sospensione che vedi a loro data? Beh, ma ce lo diranno, verranno fermati per N turni. Oggi Nicchi, l'ho detto prima, ha usato queste parole: i fatti accaduti in Milan-Juventus ci addolorano. Dopo ciò che è successo c'è poco da aggiungere, questo ha detto il presidente dell'AIA, quindi verranno presi dei provvedimenti su questo, non c'è alcun dubbio. Poi insomma, quello che ha detto Buffon, non so quanto tempo andremo avanti a dibatterlo, spero non moltissimo, perché comunque giriamo sempre intorno al discorso. Buffon certamente non ha detto una cosa sportiva, certamente ha detto una cosa estremamente impopolare. Io però, torno a ripetere, non lo giustifico, però di fronte alla franchezza io ho sempre rispetto. Cosa volete che vi dica? Fossi stato al posto di Buffon in quell'occasione in Milan-Juventus, regalato un gol al Milan, io non l'avrei fatto, ok? Io non l'avrei fatto e mi assumo la responsabilità di quello che dico. Ah, sei antisportivo, ah, che bella lezione. Mi assumo questa responsabilità, però voglio essere onesto come è stato onesto Buffon. Proviamoci tutti. Angelo Campobasso, buonasera. Grazie, complimenti per la trasmissione. Grazie a lei. Io vorrei parlare un po' di calcio perché i radioascoltatori che ho sentito fino adesso mi sembrano proprio classici elementi da processo del lunedì. Sì. Ecco, le solite, e vorrei dire questo. Per vincere una partita di calcio bisogna tirare in porta. Adesso se noi andiamo a contare le parate di Buffon, c'è stato il primo gol del Milan che è stato un autogol e un errore di Bonucci.

aumentato, ha alzato l'asticella tecnica della squadra, ha allargato di più la difesa del Milan, ha fatto più pressione sulla difesa del Milan, e questo indipendentemente da quello che uno può pensare di Vucinic, è una cosa di cui Conte doveva tener conto. Ma guarda, fai attenzione a una cosa, ai minuti delle sostituzioni di Conte: ha sostituito Estigarribia nell'intervallo e ha messo Vucinic al 9° minuto del secondo tempo. Sono le sostituzioni più precoci, le sostituzioni tecniche ovviamente, lasciamo perdere gli infortuni, ma sono le sostituzioni tecniche più precoci della stagione di Conte, che testimonia che Conte è un bravo allenatore e non è fesso. Grazie Guido, ti saluto, ti abbraccio, grazie a te, Guido Vacciago di Tutto Sport. Torniamo dopo GR 800 24 00 24 per la vostra voce. Dunque, prima di Mattia da Brescia, Claudio da Roma, Mauro da Pisa, 800 24 00 24, un sacco di ascoltatori che parleranno, spero nel maggior numero possibile, da qua fino alle 19, e a testimonianza del fatto che ieri proprio tutti hanno perso la testa in maniera anche volgare, se vogliamo, compreso un collega di cui ho stima e cui voglio bene, come Carlo Pellegatti. Sentiamo com'è stata la sua telecronaca di ieri sera, cosa ha detto. Conte è malato mentale, vai e vai negli spogliatoi stasera, cazzo rompi i coglioni stasera muto e vai negli spogliatoi, guarda che roba, colpa di quel testa di cazzo, vai negli spogliatoi e vai. Per fare incazzare Ambrosini ce ne vuole. Peggio questo o quello che ha fatto Romagnoli? So, ditemi voi, peggio questo o le dichiarazioni di Buffon? Hanno un peso diverso naturalmente, un giornalista e il portiere della nazionale. Carlo Pellegatti però ha avuto comunque il buon gusto necessario di scrivere oggi una nota, che è questa. Ormai da anni sono telecronista sulle reti Mediaset per quanto riguarda il commento fazioso, che io ho sempre preferito definire appassionato, cercando comunque di mantenere sempre nei confronti delle squadre avversarie e degli arbitri un atteggiamento corretto e soprattutto educato. Atteggiamento che mi è venuto meno ieri nel corso della telecronaca di Milan-Juventus, quando ho usato parole sconvenienti ed offensive, pensando di non essere in onda, ma questo non deve essere un attenuante. Chiedo scusa dunque alla Juventus, ad Antonio Conte, soprattutto ai tifosi juventini che si sono sentiti giustamente offesi. Capita di trovare una buca sulla strada della vita, io l'ho trovata in un sabato di febbraio. Questo la nota di Carlo Pellegatti. L'avete sentito già nel giornale radio in maniera estremamente tempestiva, però Baldini non ha dribblato come Luis Enrique, anche perché non è mai stato un giocatore di quel livello, e ha confermato che De Rossi oggi è stato escluso dalla squadra perché è arrivato tardi alla riunione tecnica, si è presentato in ritardo e ha detto: ci sono poche situazioni, poche regole, però quelle regole devono essere rispettate alla lettera, appena l'esclusione dalla partita. De Rossi è arrivato in ritardo e è stato escluso. Domenica prossima la Roma avrà il derby contro la Lazio, che ancora non si sa di chi sarà per quanto riguarda la panchina. La Roma non avrà comunque Gago, Cassetti e Osvaldo, tanto per cominciare. Mattia da Brescia, buonasera. Buonasera, chiamavo per parlare di Milan-Juve, se possibile. Ecco, io volevo un suo parere su Leonardo Bonucci, da diciamo più che tifoso sportivo juventino, perché da quando è arrivato sono dell'idea che non sia un giocatore di medio livello, niente di più. Ha dato gusto, secondo me, alla difesa del Bari con Ranocchia. Non so se c'erano situazioni particolari che hanno provato questo, ma mi sembra si stia dimostrando sempre di più un giocatore di medio livello e non sicuramente da Juve. Per quanto riguarda l'episodio di giocatore, lo ritengo un giocatore, no, ha ragione lei, di medio livello abbastanza normale. Poi i grandi difensori sono quelli, i grandi giocatori sono quelli che aumentano il livello dei compagni di reparto. Io credo che se Bonucci giocasse, butto lì un nome, con Thiago Silva o con Nesta quando stava bene, quando era magari anche più giovane, o con Samuel di qualche anno fa, farebbe altra figura. Prego. Ecco, e grazie mille per il suo commento. Per quanto riguarda l'episodio, io se fossi un tifoso milanista sarei alquanto seccato, giustamente, ma vorrei che questi stessi tifosi siano seccati se a Parma non vengono visti episodi come quello su Andrea Pirlo e cose di questo tipo. Sì, ma no, perché però, poi però, ogni partita credo sì. No, ma lei ha ragione, lo ricorda anche in modo molto civile, però così non la finiamo più, non la finiamo più, e poi c'è la Juventus che chiede rispetto, e poi c'è Marotta che interviene tutti i giorni. Si è parlato troppo in un'altra Juventus ugualmente vincente, che non era quella della Triade, ma quella di quella precedente, quella di Boniperti, non avrebbe, io credo, avrebbe scelto di non caricare in questo modo la vigilia della partita. Ma non perché erano dei santi, perché erano dei grandi uomini di calcio, credo. Claudio da Roma, buonasera. Buonasera, volevo chiederle, visto che lei è sempre una persona pagata che apprezzo, perché in Italia secondo lei si giudicano le persone e gli allenatori molto sui risultati, ed è ovvio, e poco sul modo di essere. Per tutto, cui tutto il mondo. Però allora, io ho l'impressione che in altri posti sia un po' di meno. Il mio punto è, il battibecco tra Conte e Boban ieri sera voglio dire, evidenziava una persona che negava l'evidenza, per cui l'errore che ha danneggiato il Milan è un errore molto grave e succede molto, molto poche volte, mentre il fuorigioco che ha danneggiato la Juve è un errore che ogni domenica ce ne sono 3-4. Non possono essere messi sullo stesso piano, non c'è dubbio. Possono essere uno messi che li mette sullo stesso piano, per me è malafede. Allora, malafede è un allenatore, Claudio. Io non voglio difendere nessuno, e anzi adesso lo faccio risentire questo scherzo tra Boban e Conte. Però le interviste del dopo partita, in un dopo partita così, insomma, c'è un tasso, non dico che sono inutili, no, anche se vorrei dirlo, non dico che le eviterei, anche se vorrei dirlo, però c'è un grado di tensione, di adrenalina, eccetera, per cui si possono anche dire delle evidenti fesserie come quelle che ha detto Conte ieri sera. Sentiamo. Il mondo in cui viviamo, Antonio, guarda, ho capito, come però, tecnologia, me, non usarla in questi casi. No, assurdo, però io trovo quello inaccettabile il fatto che tu dica che un gol si doveva, e non hai ragione, no. Perché sono tutti e due errori, ma non hai ragione, tecnici. Guarda, non me ne frega nulla che io sia tecnici. Non ho capito, ascoltami, però era molto più, non puoi paragonare, qua perché siamo a centimetri, lì è mezzo metro dentro la porta, Antonio, guarda, non esiste. Ma guarda che io non sto criticando, non sto dando, ma non sono d'accordo, tira dalla parte del Milan, guarda che sono due gol regolari annullati tutti e due, mi dispiace, ma non sono d'accordo con te, non hai ragione. Allora che dici? Non hai ragione. Ma non hai ragione. Vabbè, c'hai ragione perché tu, peso Svon è diverso. Sì, ho ragione io. Perché peso è diverso. Svonchi la maglietta prima di fare certi commenti. Non hai ragione, capito? Toglietela tu. Te la devi togliere tu, non io. Antonio, non hai ragione. Io credo non che sei scorretto. Non trovo d'accordo. Ma ti dico che sei scorretto anche a dirlo a me. Sei scorretto anche a dirlo a me. No, secondo me state interpretando male il giudizio delle sue cose. Mamma mia, che dopo partita. Poi ditemi voi se cos'è peggio. No, sinceramente è come paragonare un elefante a un cagnolino. Secondo me non è imparagonabile un elefante a un cagnolino. Poi che siano, possiamo dire, sono due esseri animali. Sono due animali, sì, ma sono un elefante e un cagnolino. Mauro da Pisa, buonasera. Buonasera. Dica. No, volevo sapere, ci risiamo nell'episodio di ieri, cammina in Juventus. Sempre questi arbitri che sbagliano, voglio dire, non hanno insegnato niente gli scorsi campionati. Cosa dovevano insegnare? Cioè, sbagliano e sbaglieranno sempre, sbagliano in tutto il mondo. Sbagliano, poi fanno errori madornali o fanno errori normali, sbagliano sempre, sbaglieranno in tutto il mondo. Il problema non è la fallibilità umana, che trovo sia anche il senso quasi del gioco del calcio, in particolare il senso è il modo in cui viene interpretato e recepito l'errore. Secondo me è questo che fa la differenza, insomma. Grazie Mauro. Enzo Frosinone, buonasera. Buonasera. Io volevo semplicemente chiedere due cose. Intanto il comportamento, Buffon è stato criticato da tutti. Mi chiedevo quale sarebbe poi la opinione di Prandelli nella sua convocazione nazionale, visto che è tanto legato a questo codice etico. Glielo chiederanno e risponderà Prandelli. E poi niente, per quanto riguarda invece la partita di oggi della Roma e l'esclusione di De Rossi, il mio applauso va a Luis Enrique, perché secondo me è tra i pochi allenatori che hanno forse il coraggio di escludere giocatori importanti per motivi comportamentali, anche magari futili, perché forse il ritardo sarà stato, non so. Però Enzo, se ci sono delle regole, insomma, l'ha spiegato Baldini, non Luis Enrique, come abbiamo anche sentito in diretta, perché ha dribblato l'argomento dicendo non parlo mai di quello che succede nello spogliatoio, non l'ho visto pronto in quel, non l'ho visto pronto, evidentemente stava questo ritardo. Io trovo corretto che se ci sono delle regole all'interno di un gruppo, l'ha spiegato Baldini, se ci sono delle regole all'interno di un gruppo le deve rispettare Totti come De Rossi, come Cassetti, come tutti quanti, e se ci sono delle regole che dicono chi arriva in ritardo non gioca, va fuori squadra, se si fa l'eccezione per De Rossi, allora la si deve fare anche per fammi un nome, Giorgio De Luca, fammi un nome della Roma, di un giocatore della Roma, per Gago, no? Per Borini, per Pjanic, allora l'eccezione poi a quel punto varrebbe per tutti, insomma, questo è il senso. Per me invece è un piacere salutare il maestro Oliviero Toscani, buonasera, grazie. Buonasera. Io voglio chiedere la sua subito su questa storia di Buffon e di quello che ha detto dopo la partita, perché sono particolarmente curioso della sua opinione. Mi dica cosa ha detto, perché io sono in Francia. Ecco, le dico subito, sa che non è stato concesso quel gol al Milan, no? Sì, e Buffon sì. Dopo la partita ha detto: io non mi sono accorto sinceramente se la palla era entrata o no, però se anche mi fossi accorto che la palla era entrata non l'avrei detto. Allora. Eh? Grave? Sì, è abbastanza grave, perché non parla col cuore, parla da vuole vincere anche quando imbroglia, va bene. È un vero italiano. È un vero italiano, è così, sì, fuori. Sì, infatti è nella nazionale. Sì, sono d'accordo, però uno che ha il coraggio anche di dire una verità così impopolare, che magari molti di noi pensano... Beh, fantastico, passa la storia però, sì. O no, io ammiro il coraggio, perché io anch'io che non conto nulla, da italiano dico non lo so se l'avrei detto all'arbitro che era gol, io non lo so, io lui può dirlo, avrebbe potuto dirlo perché, prima di tutto perché è Buffon. Sì. E sarebbe passato la storia come un grande uomo d'onore, invece purtroppo non è meschino anche lui. Sì. Proprio perché Buffon doveva dirlo. Sì, sì. Maestro, invece, chi sarà l'allenatore? Perché alla fine l'hanno battuto, sì. No? È stato battuto. Quindi sì, lui è stato battuto. È stato battuto. Chi sarà l'allenatore dell'Inter? Chi sarà il presidente dell'Inter? Che cosa sarà l'Inter, invece? No, allora, prima di tutto voi dovete capire che è fantastico come Massimo Moratti ragiona, sì. Perché lui ragiona col cuore, quindi poche persone sanno fare questo, sì. E quindi per tanta gente, la grande maggioranza è indecifrabile, non a caso l'Inter è così, perché è così, ogni partita dell'Inter è un'interata, non è una partita. Però ballano tanti soldi, ballano tanti interessi, ballano tante persone. Che differenza fa per lei 20 euro o 20 milioni di euro? Niente per lei, per sì, tutti gli altri, no? Sì, sì. Tutti facciamo delle grandi scene, ma chi è che paga? Sì. No, certo. E chi paga ha diritto di giocare col suo giocattolo? Appunto, lasciatelo fare, è fantastico, gioca col cuore, quindi la sua passione è molto più importante del denaro. Sì, sa cos'è un po' fastidioso però? Che mi sembra evidente che all'interno della squadra comandi un certo gruppo di giocatori che sono i senatori, e che ci sia il malcapitato lì in mezzo. Sono come Buffon, cioè mancano di cuore. Sì. Solo che Buffon ha il coraggio di esporsi, altri magari meno. Non lo so, io comunque non mi piace questa poca sincerità. Insomma. Vabbè, insomma, dovete capire, Massimo Moratti è un uomo che ragiona col cuore, quindi non so se è un vantaggio o uno svantaggio, però devo dire che è abbastanza incredibile. Ha fatto anche godere tanta gente in suo modo. Non c'è dubbio. Non c'è dubbio, 20 milioni di euro per Guardiola, dicono dalla Spagna. Ma non lo so, io non so se questa qua è una storia vera o no. Comunque, che differenza fa? Se arriva Guardiola, vuol dire che sarà una ragione. Mm. Le chiedo ancora questo. Allora, ci sono dei costi e ci sono degli investimenti. Sì. Un costo può essere veramente 10 euro, un investimento positivo può essere 20 milioni di euro. Verissimo, verissimo. E allora? Verissimo. L'istantanea di questo. Che ne sappiamo noi? Non a caso i Moratti sono ricchi, perché forse ragionano un altro beati modo. Loro, beati loro, maestro, beati loro. L'istantanea di questa stagione quale sarà? Tutte a capochino? L'istantanea cosa? Del calcio italiano? No, no, dell'Inter. Ah, dell'Inter è niente, un'interata, un altro anno interato. Una follia interista, non a caso io sono interista per questo. Vi sentite a casa, insomma? Ma no, ma è la sorpresa, sorprendente. Noi non siamo una squadra come quelle del potere, prima dell'automobile e poi del politico, insomma, quelle lì, no? Quelle strade, quelle squadre lì, del potere. Noi non siamo una squadra del potere, siamo una squadra della passione, della sorpresa, della follia. La vita va vissuta così, non da impiegati di lusso. Sì, certo. Su questa affermazione molti non saranno d'accordo, naturalmente. Vabbè, per non è che lo dica per andare d'accordo, non sono più a cercare il consenso popolare, Buffon, come Buffon, d'altra parte. Maestro, io la ringrazio. Grazie. No, un conto è il consenso popolare, un conto è essere sinceri, scusate. Essere sinceri mi ha sempre esserlo. Sì, e lui lo è stato. Soprattutto quando si gioca. E lui lo è stato. In fondo lui gioca a calcio. Sì, lui lo è stato. Più sincero di così si muore. Sì, sincero di un egoismo incredibile. Però io le ripeto, ammiro questa impopolare sincerità. L'ammiro. Non perché ha ragione, però perché non so quanti avrebbero avuto il coraggio di dire quella cosa. No, ma mi sembra come un soldato che va ammazzato perché era così, dovevo farlo. Ma che discorso è? No, la verità è la verità, una sola. E va detta subito, non si lascia passare la bugia, insomma. Dai, ragazzi, ci sono i grandi e i grandissimi. Lui è un grande, purtroppo non è un grandissimo. No. Grazie maestro, grandissimo. Arrivederci. Grazie Oliviero Toscani. Gaetano da Torino, Diego da Avellino, Enzo da Carbonia. Gaetano, dica. Buonasera signor Gelder, telefono da Torino, sono un tassista e volevo chiederle questo, da un punto di vista tattico parlo. Sì. Se avesse giocato Ibrahimovic, quindi con Boateng, sarebbe tornato a sinistra Nocerino. Ecco, in questo caso, proprio nei 25 minuti o nei 20-25 minuti che il Milan ha sofferto, con Ibrahimovic lì, il contropiede del Milan, invece di essere di 60 metri, quei contropiedi che abbiamo fatto di 3-4 contropiedi, potevano essere molto più corti e forse un pochettino più letali. Tempo, secondo me, Ibrahimovic, proprio perché sa spizzicare la palla, la sa tenere, la tiene lì, poteva mettere anche la difesa in centrocampo e gli avrebbe dato un pochettino più di riposo. Ma chiaro, ma lei ha spiegato con molti più dettagli quello che ho detto prima io in maniera forse grossolana, cioè il Milan per 70 minuti ce l'ha fatta, poi non ce la faceva più, ma anche perché, e in questo si è vista l'importanza dell'assenza di Ibrahimovic, altro che balle. Diego da Avellino, ma si parlava di grandi e grandissimi con Oliviero Toscani, ma allora Maradona è un grande o un grandissimo? Voglio tornare alla mano di Dios, eccetera, eccetera, ma è un grande o un grandissimo? Diego? Un grandissimo, ha ragione. Anche perché è viva chi è che ha il coraggio di dire quelle che poi in realtà vuole avere dalla vita. Ma comunque io mi chiedevo questo. Innanzitutto buonasera. Innanzitutto quello che io mi chiedevo, questi errori arbitrali, guardiamo quello che gli hanno fatto oggi al Palermo al primo minuto. Quello era un fallo? A prescindere il cartellino non era, ma sì, ma non era rigore nemmeno quello che è andato poi a Siena, arbitrato male Gava. Domanda, l'avessero fatto contro la Juve, contro il Milan, contro l'Inter, che staremmo a fare un'altra trasmissione? Sì, 2, 3, 4, purtroppo 5, 6, è la pochezza, 7, 8, 9, la pochezza, 10. è l'uomo che sbaglia, perché io non credo nella malafede. Non ci voglio credere, credo che gli errori ci sono, punto. Ora, per carità, io sono tifoso fino alla coliciste. Sì, coliciste a parte Diego, io credo che insomma, a parte il fatto che nel recente passato abbiamo avuto qualche esempio contrario, però credo che se si voglia decidere qualcosa in malafede non lo si faccia in modo così evidente, cioè non si fa un errore così grosso se uno è in malafede, ne fa di magari di altro tipo, fa degli errori un po' meno evidenti e un po' meno processabili. Questo è quello che penso da italiano, da bravo italiano che... Insomma, che dice anche cose sconvenienti, come quella che ho detto prima su Buffon. Enzo da Carbonia, buonasera. Buonasera, io chiaramente sono juventino, però se dovessi dare una valutazione sulla partita complessiva, io devo ammettere che il Milan ieri ha giocato meglio della Juventus, anche perché Conte all'inizio per del 70 primo minuti tempo, ha giocato meglio nei primi Juventus, 50 sì. minuti ha sbagliato la formazione, poi sì. ha adottato delle correttivi ottimi che l'ha portata al pareggio. Quello che mi scandalizza è sentire il presidente del Milan Galliani fare tutto questo can-can chiedendo l'intervento della moviola in campo. Se avessimo avuto la moviola in campo probabilmente la Juventus avrebbe anche vinto, perché McSess sarebbe stato espulso. No, il gol tanto contestato, sì, McSess sarebbe stato espulso. Ma meno male che non c'è la moviola in campo, Enzo. Ma meno male che non c'è la moviola in campo, McSess sarà sanzionato. Lei sta parlando con uno che la moviola in campo non spera di non vederla mai. Spera di non vederla mai. Spera di vedere certamente un espediente tecnologico o umano, come viene già utilizzato in Champions League, per evitare errori di questo tipo, con un pallone chiaramente dentro come quello di Lampard ai mondiali, eccetera. Questo sì, ma non frugare nelle tasche della discrezionalità dell'arbitro. Perché questo creerebbe un altro gioco, non ci appassionerebbe nemmeno più tanto, secondo me. E scusate se un'altra volta la dico grossa. Andiamo insieme, 800 24 00 24 è il vostro numero verde fino alle 19, poi torniamo, lo ripeto, come sapete, dalle 8 e mezza alle 9 per raccontarvi della giornata di basket, cosa che ho quanto mai voglia di fare, perché il pomeriggio è stato molto divertente con voi, ma tutt'altro che semplice. Saluto e ringrazio Filippo Maria Ricci, corrispondente della Gazzetta dello Sport a Madrid, che invece è solo simpatico, mai faticoso. Oggi... Non ho sentito. No, niente, lascia perdere. Divagazioni mie dovute a stanchezza. Senti, oggi non ti muovi da casa? No, sono a Vallecas e dopo me ne vado al Calderon. Pochi chilometri. Meglio di così si muore, tutto lì, Barcellona, Real. Tutto qua. Esatto, tutto qui, partita spettacolare, calcio di provincia, calcio di paese, sì. Però molto divertente. Immaginati come si sarebbe divertito Mourinho in un dopo partita come quello di ieri sera a San Siro. Vabbè, era il suo pane, mamma mia, un pesce nell'acqua. Sì. Qui oggi comunque no, divertente, si è lamentato perché i tifosi del Real Madrid erano pochi. Ah sì? Sì, ma non so se forse è vero che erano pochi, però non so nemmeno quanti biglietti gli diano, perché lo stadio è piccolissimo, non lo so, però mi sembrava. Beh, doveva trovare qualcosa da dire, non gli è venuto in mente niente di meglio, poteva fare di più, il ragazzo poteva fare di più. Dai, grandi complimenti all'avversario, un po' di guardiolismo oggi. Che cosa insopportabile. A proposito di poi tra l'altro è una vittoria assolutamente rubata, quindi insomma va bene, tutto a posto, è facile. Perché è rubata? C'era un'espulsione a Sergio Ramos, tanta fortuna, poi alla fine hanno espulso uno degli altri ingiustamente. Ma insomma, solite cose? Sì, più o meno. Insomma, più o meno solite però, cose. Attenzione alla terza espulsione stagionale di Rui Faria, giocatore chiave per il Real Madrid. Sarebbe l'assistente di Mo. Cioè, come fa a farsi espellere tre volte in una stagione, scusa? Perché sennò si deve fare espellere il capo che gli dice vai avanti tu che a me viene da ridere. Certo, d'accordo, no. Però insomma, dice che ce l'hanno con lui, ha detto lui. Ce l'hanno con lui Faria. Ha ragione, ha certamente ragione. Certo. Invece questi 20 milioni per Guardiola che sarebbe pronto a dare l'Inter? L'unica sentenza è questa, che se davvero... 20 sono tanti, Pepe, tanta roba, Ma sì, però io dico solo questo. Se è vero che il povero Pep decide di prendersi un anno sabbatico, sarà peggio che stare in panchina. Perché lo chiameranno ogni minuto. Sì. La prima squadra che va in crisi lo chiama. Sì, e poi la seconda, e poi la terza, e poi la quarta. Per cui, cioè, meglio lavorare. Beh, insomma, aspetta un attimo, perché non so quanti se lo possono permettere. Beh, insomma, però tra l'Inghilterra, l'Italia, dai, qualcuno chiama. Ma senza i 20 milioni, sei 20 milioni, dai, non scherziamo. Non stanno nel cielo né in terra, Ma no, ma figurati. Però, in generale, se lui non lavora, cioè, alla prima sconfitta, cioè... il Moratti lo mette proprio alla P, no? Sai, sì. Il numero preferito, no? P, Pep, tac, ogni volta che perde schiaccia la P e gli parte la telefonata. Tanto che Mourinho non parla dell'Inter, questo è preoccupante. Sì, è preoccupato. Preoccupato lui. che debba tornare indietro, è preoccupato che se non funziona la P scatta la J. Che dove lo mettiamo? La M di Mu. Filippo, ti chiedo ancora una cosa di cui è tutto il pomeriggio che parlo, e riguarda le dichiarazioni di Buffon di ieri sera, le avrai sentite, no? Sì, aspetta che ti ho perso. No, mi hai perso, sono qui, no, mi senti? Allora sì, sì. No, sì, ora io, sì. Io volevo, è tutto il pomeriggio che parlo delle dichiarazioni di Buffon di ieri sera. Ma perché? Basta, come no? Perché? Come basta? Ah no, dai, troppo pelle lunghe, via, dai, muoviamoci su una prossima discussione. Io sono su questo, ti dico, un'estrazione anglosassone o anche spagnola, anche qua si fa grande casino, però da ieri sera abbiamo parlato abbastanza. Sì, No, non lo so, lo sapete voi, però voglio dire, una partita sfortunata. Mettiamola così. No, però sai, lui che dice, me ne fossi accorto non l'avrei detto. Questo ha sconvolto un po' tutto, capito? Non è tanto la palla che è entrata. A parte che io non sono convinto che lui non se ne sia accorto. Poi, non so se per eccesso di protagonismo, per delirio di onnipotenza, eccetera, è uscito a dire una cosa molto scomoda, che però io non riesco a non apprezzare nella sua impopolarità. Certo, esatto. Alla fine io la vedo più così. Più che il contenuto della frase è tra virgolette quasi secondario, sì. Conta il significato, il nocciolo della questione, insomma, il fatto di dire una cosa del genere, certo, non è più importante, certo, che la frase stessa. Certo, certamente. Filippo, grazie, anche perché adesso devi fare un sacco di strada, Sì, adesso scriviamo, poi veniamo allo scooter e andiamo di là a prendere. Con lo scooter vai? Certo, sì. Quanti gradi ci sono a Madrid? Beh, attenzione, prima ce ne sono stati anche, non so, anche 20, così, sì. E più tardi sarà meno 2, non lo so, perché è un'escursione notevole. Quel calderone praticamente lo stato al contrario in quanto a calore, sì. Però insomma, però si gira in scooter, il sole, tutti in torso nudo, quindi addirittura prima aprile, sì. anche a Milano primavera fuori stagione. Filippo, ti ringrazio, se no facciamo anche le previsioni meteo, rubiamo spazio il lavoro ai colleghi, grazie, un abbraccio, ciao Filippo Maria Ricci. Andrea Asti, buonasera. Buonasera a voi. Dica. Io, nonostante quanto detto finora di Buffon e nonostante il colore del tifo sia rosso-nero, spezzo una lancia a favore del portiere della nazionale. Sono convinto che se ne fosse accorto del pallone. Ma sa che io, non lo sapremo mai, però. Vabbè, è una convinzione mia, ovviamente. Perché che io l'ho vista molte volte, ma veramente, cioè, può essere che l'occhio del portiere, così come quello del tennista, sia allenato a comprendere certe cose, però lui guarda la palla, non guarda la linea. Insomma, io posso arrivare a credere fino in fondo a Buffon che dice. Non ho capito se ero dentro o fuori, però quello che è importante è quello che ha detto dopo. L'importante secondo me è che obiettivamente io non me la sento di criticare Buffon. Buffon concorre per far conseguire un titolo alla propria squadra e ci sono degli arbitri atti a dover dire entrata e non entrata. Perché altrimenti allora in ogni contatto uno dovrebbe dire ha enfatizzato la caduta, ha esagerato il colpo, non se ne esce. Ogni gesto potrebbe essere tacciato di, vittimismo piuttosto che non protagonismo. Buffon non era accorto che è entrato, ma lavora per la Juve e deve far conseguire titolo della Juve. Ci stava un arbitro che mi auguro da poi, domani poi se c'è, venga, se c'è il giocatore a saldare le carpenterie da sì. qualche parte, perché non può non accorgere. Sì, guardaline, buona serata anche a lei. Poi è chiaro che se uno invece, ma ne abbiamo visti così pochi che ce li ricordiamo tutti uno per uno, se poi arriva quello che va dall'arbitro e gli dice no guarda questo è gol, cioè a parte che in una partita come questa devo ancora vederlo e penso che non lo vedrò mai, però se ce n'è uno, oh, ci alziamo tutti in piedi ad applaudire, eh? Se ce n'è uno, ma non so se ci alzeremo mai tutti in piedi ad applaudire. Giuseppe Sesto, buonasera. Sì, buonasera dottor Genta. Allora, due veloci considerazioni sul discorso di Buffon. La prima, io sono portiere da 15 anni, chiaramente rispetto a Buffon sono una briciola, ci mancherebbe. Dove gioca? Però in 15 anni, nel senso uno... Dove gioca? No, giocavo prima calcio a 11, poi adesso calcio a 5. Sì. Quindi comunque ho spaziato su entrambi questi fronti. Sì. Però in 15 anni di, tra virgolette, carriera... Oh. Uno si fa l'occhio e sa quando prende una palla che è dentro, quando la palla è fuori. Possibile. Quindi me ne accorgo anch'io, a me è successo anche qualche volta. Sì. E mi sono ben guardato da dire all'altro, scusi arbitro, è entrata. Sì, sì, sì. Cioè, sì. E poi, riguardo al fatto che ci si è scandalizzati da quello che ha detto Buffon, in particolare qualche tifoso milanista, domanda secca, bruciapelo, ma se fosse successo ad Abbiati alzava la mano e diceva scusi arbitro la palla è entrata, ma ripeto, meraviglia è un'altra cosa, questo è pianeta Terra. Sì, ma infatti è chiaro che in un mondo ideale sarebbe così. Però anche molti ma non è moralismo, è onestà. Molti di quelli che dicono no, io l'avrei fatto, vabbè, io Carlo Genta non l'avrei fatto, sarò un mascalzone, però fossi stato Buffon in una partita così, eccetera eccetera, voglio vincere la partita. Maradona non l'ha fatto, molti altri non l'hanno fatto, ci sono stati alcuni che... Ci ricordiamo Paolo De Canio, eccetera, eccetera, in un altro contesto, in un'altra partita, che l'ha fatto. Non so quanti ne vediamo o ne vedremo, però, in tutta onestà. Perché? Perché al paese delle favole non ci crediamo, e questo in particolare non lo è. Giuseppe, da Lamezia, buonasera. Buonasera. Allora, parliamo di Buffon. Buffon, ultimamente... ha fatto anche delle dichiarazioni che aiutava gli arbitri, poi per un angolo in partite precedenti è successo dei disguidi con gli arbitri, che non gli hanno creduto. Senta, ma lei al posto di Buffon sarebbe andato dall'arbitro a dire guarda che è gol, il Milan vince 2-0? La verità. È impensabile, no. E chi l'avrebbe fatto? Chi l'avrebbe fatto? Chi l'avrebbe fatto? Se alzi la mano uno che avrebbe detto no, è gol, un portiere che dice è gol nella propria porta, alzi la mano. Sì, cioè. No, ma infatti, poi possiamo anche dire che non c'è sportività in questo, possiamo anche dire che è solo furbizia, possiamo dire mille cose, però se vogliamo essere onesti la verità è questa, ammettiamolo. Tonino da Catanzaro, lei che avrebbe fatto? Tonino da Catanzaro dov'è? Proviamo a sentire. Tonino, la sento, sono qui. Lei sarebbe andato dall'arbitro a dire no, guarda che la palla è dentro, il Milan vince 2-0? No, io sono proprio su questo, volevo parlare. Mi dica se l'avrebbe fatto. Una domanda, io volevo... mi dica se l'avrebbe fatto. Lei sarebbe andato dall'arbitro a dire guarda che la palla è dentro, il Milan vince 2-0? Ma guardi, è una domanda a cui è difficile rispondere. Lo so anch'io. Io, tra l'altro, da milanista, io avrei detto sì, nel senso che Buffon doveva dire questo. Da sportivo, forse pochi lo fanno, pochi lo faranno, ma è chiaro che sono d'accordo con Toscani quando dice che un grandissimo si vede anche in queste cose. Però io, Maradona è un grande o un grandissimo? Sì. Maradona è un grande. Un grandissimo l'avrebbe fatto. Maradona è un grande o un grandissimo? Una grande stima e grande rispetto di Buffon come grandissimo portiere, forse il più grande portiere che c'è stato in Italia e nel mondo, è grandissima persona. Beh, grandissima persona, ha fatto le sue fesserie anche lui di altro stampo, genere. Ah, beh, insomma, lascia stare, dai. Io però questa sera ho sentito la sua trasmissione, però non accetto, non apprezzo quello che lei dice sulla risposta di Buffon. Cioè, cosa? Proprio da lei, io vorrei capire che concezione lei ha dell'onestà. Ma no, ma le ho chiesto lei, lei mi ha detto è una domanda difficile, lei sarebbe andato dall'arbitro a dire questo è gol? Buffon, lei? Non di me. Il mio giornalismo è imparziale perché io dico la mia opinione, per quanto impopolare e scomoda possa essere, cioè se mi portassi dietro tutta la demagogia del mondo direi che mascalzone, che antisportivo, è questo che insegniamo. Io però ve lo chiedo, lei l'avrebbe detto, è una domanda difficile, ci gira intorno, non mi dà una risposta. Gianni D'Ancona. Io su Buffon voglio dire solo che lui... No, parla... mi dica di lei, sarebbe andato dall'arbitro a dire questo è gol? Assolutamente no, io sono per play a fine gara, durante la partita... Senta, per quanto riguarda Matri, posso? Sì, prego. Matri, c'è una ruggine sicuramente tra Conte e Matri, non è sicuramente tecnica, perché lui è uscito 8 volte dal campo, l'ha tolto e 8 volte il risultato non è mai cambiato, è entrato per la prima volta ieri e ha fatto 2 gol. Bisogna che Conte dà una spiegazione per questo, perché non ho capito perché un giocatore come lui non ha queste considerazioni, perché poi si è giocato la partita per colpa di questo, perché tutta la partita, a parte il gol che ha demoralizzato la Juve, quello di Nocerino, praticamente la Juve non ha più giocato perché non aveva un attacco che supportava il centrocampo. Sì. E con Matri questo è diverso. Sì, è un giocatore molto importante, lei ha ragione, è un giocatore molto importante. Al Milan. Per quanto riguarda invece Buffon, io dico che Buffon per me non è tanto, già lui non doveva neanche parlare, perché è una cosa normale, non doveva dire nulla, no? Che se l'avrebbe anche visto, non lo doveva dire. Ma Buffon per me ultimamente para poco e parla troppo. Sono d'accordo sul fatto che se lo poteva risparmiare, poteva limitarsi a pensarlo come facciamo tutti noi. Per me non ha più l'elasticità, si vede proprio che sembra che ha paura di stare in forma. Insomma, questo mi sembra tanta roba, anche perché gol non gol, era gol eccetera, mi sembra che quel tentativo di parata sia stato sufficientemente elastico con il colpo di testa da un metro, ma non discutiamolo, stiamo discutendo di altre cose, mi sembra che, insomma, poi è chiaro, ai suoi anni ha avuto i suoi infortuni, non è quello di 7-8 anni fa, tutto questo è verissimo, però se devo prendere un portiere per giocare una partita importante oggi al mondo prendo Gigi Buffon, non ho dubbi su questo. All'edizione online del domenicale Weltansonntag, il presidente di UEFA Michel Platini ha bocciato l'idea di introdurre da marzo telecamere per controllare i gol, appoggiate invece al presidente della FIFA Joseph Blatter. Platini, 2: il calcio è lo sport più amato del mondo perché ha regole semplici che funzionano ovunque. Penso sia assurdo cambiarle, ha detto. Se metto una telecamera per controllare i gol, ha aggiunto, allora ne devo mettere un'altra per controllare i fuorigioco, perché di fuorigioco ce ne sono 10 volte per partita. Ma un gol come quello dell'Inghilterra contro la Germania ai Mondiali 2010, che erroneamente non fu riconosciuto, capita solo ogni paio d'anni. Infatti, cosa dite? È quanto mai tempestiva questa intervista di Platini. Mi sembrano però due piani diversi, quello del pallone che passa una linea e quello del fuorigioco. Io sono d'accordo con Platini totalmente sul fatto che il calcio è lo sport più amato del mondo perché ha regole semplici che funzionano ovunque e penso sia assurdo cambiarle. Su questo punto sono d'accordo. Mi mettessero un chip dentro quel dannato pallone, allora mi piacerebbe di più, però non ne faccio una questione di principio, cioè, andiamo anche avanti così che ci divertiamo di più a discutere, in fondo cosa c'è di più bello? Andrea da Como, buonasera. Buonasera, senta, mi rendo conto che per i giornalisti il campionato è ridotto a 4 squadre e le altre sono comprimarie, perché veramente basta Milan-Juventus, Inter, la crisi dell'Inter e poi Milan-Juventus. Comunque, se è stato scandaloso, no, perché veramente per i tifosi di altre squadre è francamente smarronante, se mi passa il francesismo. Sì, glielo passo. Detto questo, scandaloso Milan-Juventus, perché insomma sono comunque professionisti, ma io sono tifoso del Palermo, oggi veramente Gava o Grava, come si chiamava? Gava, l'abbiamo detto prima, mi sembra... in galleria non ho sentito. Mi metterò anche a calcolare i vostri tragitti, cosa volete che vi dica? Ho detto che la partita del Palermo, proprio a questo proposito, è stata condizionata da un'espulsione dopo 70 secondi di Balzaretti, su cui non ho la piena convinzione, e che il fallo su Brienza, che ha portato al rigore del pareggio sul 1-1, secondo me non era rigore neanche per sogno, quindi ho detto questo. Insomma, buttare fuori un giocatore dopo 70 secondi veramente aver fatto qualcosa di grave, perché le partite bisogna anche saperle interpretare. Balzaretti non sono nemmeno così convinto che non abbia colpito il pallone, l'ho visto un paio di volte e se non cento come il gol di ieri sera, però Gava oggi a Siena ha arbitrato male, punto. Va bene, grazie, ciao. No, a lei, ciao. Vincenzo Mantova, buonasera. Buonasera, volevo soltanto aggiungere una cosa, mi ripeto, anche un intervento sul discorso di Buffon. Innanzitutto neanche io avrei detto quello che lo avrei detto all'arbitro, ma è a monte secondo me un'ipocrisia e un errore di Buffon, e cioè che al di là della sincerità lui voglia far credere che non si sia accorto che era dentro. Questa è la stupidaggine secondo me. Non lo so, io a questo non so rispondere. Però tutti quanti noi possiamo comunque vedere che è difficile non accorgersi, fermo restante che neanche a maggior io, ragione, ripeto, ma, avrei ma scusi detto però Vincenzo questo. Però Vincenzo mi perdoni, cioè stiamo dicendo che Buffon doveva convalidare il gol del Milan, cioè se Buffon non se n'è accorto e si stava buttando per terra per prendere un pallone, cioè il guardalinea che era lì in piedi in linea con il palo, allora cioè è Buffon che mi deve dire che è gol o è il guardalinee? No, perché mi sembra che stiamo un po' spostando anche l'angolo del problema, no? È Buffon che mi deve dire che è impegnato in un gesto difficile. Poi, atletico, d'accordo. Atletico, si sta buttando per spingere un pallone veloce, poi magari se n'è accorto 100.000 volte, però io questo di questo non sono convinto, di questo non sono sicuro. Però è più normale che non se ne accorga il portiere che sta tentando una parata o il guardalinea che è lì in linea con il palo che non è coperto da nessuno? Assolutamente un errore madornale, neanche si possono paragonare i due errori, assolutamente. Boh. Non c'è proprio paragone tra il gol annullato, quello lì del Milan. No, va bene, ma no, è questo, ma non è nemmeno questo il discorso. Cioè, non è nemmeno questo il discorso. Il discorso è che non è compito di Buffon rendersi conto se il pallone è entrato o no. Buffon pensa a pararlo, poi magari se n'è accorto, ripeto, questo non lo so. Però voglio dire, se di errore di valutazione se si tratta, cioè l'errore di valutazione l'ha fatto il guardalinea, non l'ha fatto Buffon. Mario Pescara, buonasera. Buonasera, dunque io volevo dire questa cosa, cioè qual è il gusto dal fatto di dire no, di vincere una partita così, cioè io so, quindi io l'avrei detto in questo senso, non certo perché sono onesto, perché chissà che cosa sono, ma che gusto c'è a vincere una partita così, quando io so chiaramente che ci sono televisioni, telecamere, Sky, media, l'ha vista oggi la foto sul Messaggero? L'ha vista male, oggi la foto? Le ho viste tutte. La foto sul Messaggero, come si fa a dire che non è dentro? Ma cioè, non è questione, ma è dentro, la palla è dentro, ma chi lo discute? Ma possiamo vedere le foto su qualunque sito internet del mondo, la palla è dentro, ma non c'è discussione come era dentro quel tiro di Lampard cui fa riferimento Platini, ma non... Però lei se mi dice che gusto c'è a vincere una partita in questa maniera, ci sono stati anche gli ascoltatori che dicono io al campetto il gol, anche se me ne accorgo, non glielo do. Cioè stiamo parlando di Milan-Juventus, stiamo parlando della partita Scudetto. Che gusto c'è allora, possiamo dire, a vincere, ad alzare la Coppa del Mondo segnando con la mano? Che gusto c'è? Non lo so, ditemelo voi, l'alzereste, l'avreste alzata o fossi stato in Maradona saresti andati all'arbitro? Caro arbitro, la mano de Dios, eh? Ma siate onesti. Pino da Varese, buonasera. L'avrei alzata, sicuramente. Anch'io, ma tutta la vita. Buonasera. Tutta la vita. Buonasera. Volevo solo raccontare una cosa carina che è accaduta e che ripercorre un po' quello che è successo ieri sera a San Siro. Campo molto più alla buona, campionato giovanissimi nazionali, quindi ragazzi di 14 anni che sono i piccolini delle squadre nazionali, dalla Serie A fino alla Lega Pro, che fanno un campionato appunto anche loro come i grandi. E la partita è Trizium, che è la squadra in Tresto d'Adda contro Varese, capita la stessa cosa. Quindi su una punizione, un colpo di testa, la palla entra in rete, la squadra esulta, l'arbitro fa giocare. Fa giocare, quindi va avanti la partita, mancano 4 minuti e la partita finisce. Chiaramente i bimbi, che io chiamo ancora bimbi, vanno a protestare. Mio figlio, che era quello che aveva segnato, dice: ma signor arbitro, lei era vicino a me, non ha visto che era dentro? E l'arbitro gli ha risposto: sì, ho visto, ho sbagliato. Questo applauso, dire... ecco, guardi, se al di là della standing ovation, ecco, se c'è una cosa che invece a me fa imbestialire è quando mi capita di vedere partite giovanili e vedo i bimbi che vanno a protestare in maniera spesso anche molto volgare, vibrante e maleducata con gli arbitri. Ecco, questo mi dà molto più fastidio rispetto a Buffon, che dice quello che ha detto, perché di sì, perché il mio pensiero è questo. E l'arbitro che dice sì, ho visto, ho sbagliato, ha dato una grande lezione anche lui. Ha dato una grande lezione anche lui. Quindi in quel caso è il caso diametralmente opposto rispetto a quello che abbiamo visto ieri sera a San Siro. Sentite, ci risentiamo domani su questi argomenti. Sarò a questo microfono dalle 14 alle 15 per A Tempo di Sport. Per gli appassionati di basket invece l'appuntamento è alle 20.30 di questa sera, naturalmente per parlare di ciò che sta succedendo sui campi di Serie A. Giorgio Lucca in redazione, Pietro Lacorte in regia, più tardi.